Il vetro. I. Ascolta il testo. Un'altra arte pregiata è la lavorazione del vetro soffiato. Già alla fine del 200, sull'isola di Murano, esisteva un'industria del vetro soffiato, che è tuttora fiorente. Il vetraio mette prima la pasta di vetro in forno a una temperatura molto alta, poi, con l'aiuto di una canna metallica da soffio, la lavora con pinze, forbici e pale di legno, oppure soffia dall'interno della canna per dare forma all'oggetto. Per impreziosire il vetro applica foglie d'oro o d'argento, mentre per la colorazione utilizza vari minerali. Infine, mette il prodotto in un forno di raffreddamento, perché se non viene raffreddato molto lentamente si può rompere per un eccessivo sbalzo di temperatura.